24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, siamo qui alle 7:21 minuti, allora l'ultimo giorno della settimana di 24 mattino, siamo anche nella nostra pagina Facebook, venite a trovarci. E oggi avremo per parlare, insomma, di quello che ha detto Monti, tornalici, questo ormai è abbastanza certo, sulla prima casa e poi di pensioni, di lavoro, insomma il programma di Monti che ha ottenuto la prima fiducia al Senato, oggi alla Camera. Ne parleremo alle 8:20, avremo ospite il governatore della Lombardia Roberto Formigoni e poi avremo Daniela Santanchè alle 8:30, l'economista e senatore Nicola Rossi. Insomma, questi i temi che tratteremo oggi. Prima iniziamo da che cosa? Dai quotidiani in edicola. Venerdì 18 novembre, intanto uno sguardo ad alcuni titoli di apertura. Per il Sole 24 Ore, la cura Monti parte da fisco e lavoro. Per il Corriere della Sera, pensioni, ICI, lavoro, il piano di Monti. Repubblica, non siamo il governo dei poteri forti, una delle frasi dei Monti ieri. La Stampa, Monti, interventi su ICI e pensioni, stesso titolo sul Messaggero. Per il Giornale, occhio, ci entrano in casa, Libero, per ora solo tasse. Il Fatto Quotidiano, pensioni, lavoro e ICI, l'amara medicina di Monti. Mentre il titolo più azzeccato, come spesso accade, il Manifesto, efficace, veni, vidi, ICI. Allora, da cosa partiamo? Beh, questa campagna di Benetton, che poi non è partita, ha suscitato un casino mondiale, diciamo la verità. La campagna forse l'avete vista nelle foto, quella che doveva ritrarre, sono stati affissi dei manifesti per un giorno e poi ritirati, i grandi della terra che si baciano in baci proibiti, no? Barack Obama con il leader cinese Hu Jintao, Angela Merkel e Nicolas Sarkozy. C'era anche Angela Merkel con Silvio Berlusconi. Oggi Repubblica mette la foto, poi la campagna è stata ritirata all'ultimo momento, quel manifesto in particolare per il cambio di governo in Italia. E poi il Papa con l'imam di Al-Azhar, la massima autorità sunnita in Egitto, la massima università. E insomma, una campagna che adesso porta il Vaticano a voler querelare. I baci di Benetton irritano anche Obama, così titola Repubblica, che intervista chi? Oliviero Toscani, colui che per Benetton per anni ha fatto le campagne più creative, dice qualcuno, o all'insegna dello shock e del voler stupire a tutti i costi per qualcun altro. Oggi Oliviero Toscani boccia in maniera impietosa questa iniziativa. Ma quale shock? È solo sciocca. La mia pubblicità era un'altra cosa. Ha fatto bene Obama ad arrabbiarsi, così come il Vaticano. È normale che la gente si arrabbi se viene offesa. Che senso ha fare il fotomontaggio del bacio tra il Papa e l'imam o tra Obama e il leader cinese? Non colgo il messaggio, è solo volgarità. Io non ho mai toccato personalità così riconosciute. Il prete e la suora che si baciano nella mia foto del 91 erano simboli, non offendevano nessuno, erano poetici. Non hanno preso le mie idee, è l'idea, non c'è creatività, non c'è stile, non c'è poesia, più che sciocca è una campagna sciocca, patetica, roba da scuola dei dilettanti d'arte di Treviso, troppo facile insultare così. Insomma, un Oliviero Toscani che prende le distanze in maniera netta. Sta di fatto che il Giornale titola "Il Papa porta i baci Benetton in tribunale, il Vaticano è pronto a querelare per questa campagna". E vi segnalo che su Avvenire c'è un intervento di Alberto Contri, che è presidente della Fondazione Pubblicità Progresso, a pagina 2, e scrive Contri: al di là degli aspetti morali, eccetera, qui siamo proprio in presenza di una flagrante violazione di norme giuridiche elementari. A nessuno infatti è permesso utilizzare l'immagine altrui in pubblicità senza consenso, a meno che non si tratti di diritto di cronaca. Dunque qui siamo con immagini neanche reali, ma dichiarati fotomontaggi. Figuriamoci poi se è lecito arruolare a loro insaputa personaggi famosi in qualità di testimonial per una campagna pubblicitaria, quando questo tipo di attività è normalmente regolata da minuziosi e dettagliatissimi contratti. Insomma, da intervento, da tecnico, vorrei sottolineare come prima ancora che una mancanza di rispetto si sia di fronte a palesi e patenti violazioni del codice civile. Insomma, questa campagna Benetton ha creato un fiume di polemiche mica male. Poi voglio segnalarvi questo: mentre la regione Lombardia, e lo chiederemo a Formigoni, insomma, più che altro bisogna per una volta dare una notizia positiva, dalla prossima legislatura pare che la regione Lombardia ormai sia decisa ad abolire i vitalizi per i consiglieri, come ha fatto per prima la regione Emilia-Romagna. Ricordate il nostro amico presidente del Consiglio regionale romagnolo Richetti, che ci ha spiegato come si può fare. La Lombardia lo farà a giorni, noi lo controlleremo. Ma invece sul secolo XIX c'è questa storia: in regione Liguria 5 assessori si tengono l'auto blu, ma per motivi privati. Cioè c'è un regolamento, scrive Bruno Viani per il Secolo a pagina 21, che prevede l'uso non strettamente istituzionale delle auto di servizio con autista. Cioè, neanche per motivi di lavoro, ma per motivi privati, non per motivi di servizio. Usufruiscono di questa opportunità con ragioni personalissime, che possono essere più o meno nobili, 5 assessori. Sono Raffaele Paita, Lorena Rambaudi, Giovanni Boitano, Giovanni Barbagallo e Angelo Berlangeri. Il Secolo dice, ecco, vi diciamo i nomi. Per esempio c'era anche l'assessore fino a un mese fa, Gabriele Cascino, o Cascino, che però ha deciso di rinunciare. L'assessore allo sport dice, per andare a premiare un atleta non credo sia un intervento che salverà la vita a qualcuno e dunque rinuncio all'auto blu. Ma invece ci sono degli assessori, 5 per la precisione, che hanno macchina e 2 autisti, basta un contributo e anche per motivi personalissimi possono mantenere l'auto di servizio anche fuori servizio alla regione Liguria. 24 mattino. Eccoci dunque alle 7:32 minuti. Allora, è stato il giorno ieri della prima fiducia del Senato a Mario Monti. Oggi ci sarà la fiducia alla Camera con 281 i sì, i 25 invece i no al governo Monti. Dunque è arrivata la prima fiducia. Che cosa ha detto Monti? Lo avete sentito anche nel giornale radio, alcuni concetti base. Non siamo il governo dei poteri forti, intanto. Si è riferito per esempio al suo ruolo da ex commissario europeo, ha detto Monti, per quanto riguarda l'atteggiamento del governo nei confronti dei poteri forti, delle multinazionali, superpotenze in Stati Uniti e Europa, vi rassicuro, le nostre modeste storie personali parlano in questo senso. Quando ero commissario europeo non sono sicuro che le multinazionali mi abbiano colto come uno loro devoto e disciplinato servitore. E poi invece per quel che riguarda gli interventi, il programma di governo, si è prospettato chiaramente il ripristino dell'ICI sulla prima casa, visto che Monti ha detto l'ICI che non c'è è un'anomalia tutta italiana. Si è prospettato un cambio nel mondo del lavoro, bisogna interrompere il dualismo tra ipergarantiti e precari, ha detto Monti, con un'attenzione particolare al potenziale inespresso di giovani e donne. Si potrà puntare a sgravi sul lavoro spostando la pressione su consumi e sul patrimonio. Ecco, cosa vuol dire l'introduzione di una patrimoniale? Per ora non è chiarissimo, però si vedrà. Sulle pensioni invece si pensa all'adozione del metodo contributivo per tutti nella forma prorata e il superamento di pensionamenti di anzianità con l'anticipo di quota 97 nel 2012 e un ricorso a un meccanismo flessibile di uscita da 63 a 67 o 70 anni ancorato a incentivi e penalizzazioni. E poi insomma il piano delle infrastrutture, le liberalizzazioni, le dismissioni, insomma queste sono le linee guida dell'intervento di Monti. Oggi tra l'altro sul Sole 24 Ore trovate diverse pagine legate a questo, sul fisco, l'ICI, le pensioni, il lavoro, insomma tutto ciò che è nel piano Monti. Per esempio Marco Mobile e Marco Rogari raccontano del ritorno dell'ICI sulla prima casa, quella che appunto è stata definita una anomalia tutta italiana da superare. Tra l'altro a pagina 7 Dino Pesole ricorda i numeri della manovra dietro l'angolo, una manovra da 20/25 miliardi di euro. Tra 2 settimane è prevista anche la correzione per assicurare il pareggio di bilancio, mentre già la prossima settimana ci potrebbero essere i primi provvedimenti concreti quando ci sarà la fiducia incassata alla Camera oggi. Insomma, queste le linee programmatiche. Per esempio, oltre a l'ICI, che il giornale sintetizza così: occhio, vogliono entrarci in casa, oppure il manifesto Veni, Vidi, Ici. C'è anche il tema del mercato del lavoro, molto, molto più dibattuto, molto più discusso, che riguarda davvero tutti noi italiani. Ecco, per esempio, c'è l'allarme lanciato dal Manifesto a pagina 4, articolo 18, dritto nel Fornero. Ovviamente si gioca anche col nome del ministro, neo ministro Elsa Fornero. Affermazioni di tregua sulle pensioni, ma un programma più spinto sul lavoro, scrive Antonio Sciotto sul Manifesto a pagina 4. Il governo Monti potrebbe riuscire a scardinare l'articolo 18, non tanto nella forma hard proposta in extremis dall'ex ministro Sacconi, che avrebbe voluto infilare all'ultimo momento i cosiddetti licenziamenti facili, ma nella più soft e moderata versione Ichino. Ne sono una prova le parole pronunciate ieri nel discorso programmatico al Senato e l'attivismo anche improvviso di Ichino, che ieri ha avuto un lungo colloquio con la ministra del welfare Elsa Fornero. In realtà Ichino risponde con un'intervista al Riformista, pagina 4. Lavoro e diritti non sono isolato nel Partito Democratico. Diranno che sono un provocatore, così si allarma Ichino. Quali imboscate sull'articolo 18, si arrabbia il senatore. Più alla luce del sole di così non si potrebbe operare. Monti ha detto chiaro e tondo che non verrà toccato l'articolo 18 per chi oggi ha un rapporto di lavoro stabile e regolare. Verrà invece ridisegnato un diritto del lavoro capace di voltar pagina rispetto al regime attuale, che è di apartheid tra lavoratori protetti e non protetti. Ma questo nuovo diritto si applicherà soltanto ai rapporti di lavoro che si costituiranno da qui in avanti. Dunque, dice Ichino, per i lavoratori attuali nessuna modifica, soprattutto dell'articolo 18, così nella lettura delle parole di Monti. Quindi, dice Ichino, nell'immediato nessun licenziamento né ondate di licenziamenti, come dice chi ne parla senza conoscere, ma solo assunzioni a tempo indeterminato più facili. In futuro, dove si applicherà il nuovo regime, a chi perderà il posto di lavoro verrà offerta una protezione sul mercato del lavoro a livello dei paesi più avanzati d'Europa. Al che chiede Ettore Maria Colombo: è questo il modello Ichino che vincerebbe? Lei lo chiama modello Ichino, la risposta del senatore. Io preferisco chiamarla flex security alla danese. Insomma, Ichino che... Però bisogna capire il Partito Democratico su questo come risponderà, anche perché il Partito Democratico è alle prese, e ne scrive Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, con una vicenda che coinvolge il senatore, l'onorevole il responsabile economico, onorevole Fassina, che secondo molti viene criticato, addirittura secondo alcuni dovrebbe in qualche modo essere allontanato dal partito, comunque è fuori dalla linea del partito. Stefano Fassina avrebbe criticato, avrebbe parlato di molti se e molti ma sulla proposta del governo Monti, e dunque per questo viene criticato da vari ambienti all'interno del Partito Democratico. In ogni caso, tra i vari tagli voglio premiare questo titolo della Stampa, che suona più come una barzelletta, nel senso che è una cosa che già fa sorridere a dirlo. Subito taglia Palazzo Chigi, e qui va bene, ci sta. Le province tornano in bilico, eccola qui, quella che assomiglia più a una barzelletta. Francesco Semprini ne parla a pagina 12, pare che Mario Monti voglia riprovarci, per ora con quella che ha definito una riorganizzazione, un riordino delle province, tanto che a corredo di questo articolo c'è un'intervista al presidente dell'Unione delle Province Italiane, Giuseppe Castiglione, che è stato anche nostro ospite, che difende estremamente l'importanza delle province. Non abbiamo nulla contro le province, ma il concetto è che in Italia questa delle province è un po' una farsa tipicamente italiana, cioè annunciate per tagliate, cancellate decine di volte, poi non se n'è mai fatto niente, non se ne farà mai niente, ma noi siamo pronti. Insomma, se si riuscisse, non tanto, ripeto, contro le province in sé, ma se si riuscisse a dire facciamo questa cosa, tagliamo le province e Monti lo fa, io ripristinerei Re Mario Monti, ripristiniamo la monarchia in Italia e lo facciamo Re Mario Monti. Ovviamente è molto critico e continua nelle sue critiche Giuliano Ferrara sul Foglio dice il governo del preside, lui lo chiama, no? Il preside della Bocconi. Lo chiama, dice che è un esordio pessimo, non ha detto che cosa, avrebbe dovuto dire che Berlusconi non era l'origine della crisi finanziaria, avrebbe dovuto dire lavoro per risolvere i problemi determinati dalle sue responsabili dimissioni e non per fare pasticci e poi candidarmi alla guida del centrosinistra antiberlusconiano allargato. Il mio dovere è un lavoro a termine perché sono fiducioso nella democrazia. Insomma, non ha detto niente di tutto questo e quindi per Ferrara un esordio pessimo, quello di Mario Monti al Senato. Sta di fatto che invece ci sono molti elogi. Ecco, una cosa che continua da giorni, da parte di tutti i giornali, è l'elogio alla sobrietà. Tutti fanno notare proprio il distacco molto netto nel modo di porsi di Monti, dei ministri, rispetto al precedente governo Berlusconi. Il Secolo sintetizza così con un titolo a pagina 3, un marziano in aula con la famiglia seduta in tribuna. Oppure guardate l'articolo di Mattia Feltri a pagina 4 della Stampa, per 9 ore impassibile, poi il cyber premier chiede un bicchiere d'acqua, il cyber premier, no? Un uomo capace di non uscire, di uscire non si dice indenne, ma ritemprato da 9 ore abbondanti di aula parlamentare, è un uomo capace delle più ardue imprese, cioè un uomo così, scrive Mattia Feltri. Non so, Berlusconi per esempio al minuto 27 cedeva al primo sbadiglio, al minuto 32 mandava biglietti alle ragazze invitandole a raggiungere sale da ballo, loro che potevano, al minuto 41 si accasciava sulla sedia, al minuto 56 sonnecchiava sul morbido Sandro Bondi riciclato come guanciale. Mario Monti no, non si è mai assopito, non si è accasciato, non ha diffuso esortazioni danzerine, non si è arreso a uno sbadiglio, non a una smorfia. Dopo 9 ore ha chiesto un bicchiere d'acqua, insomma, cyber premier. Oppure guardate a pagina 4 di Repubblica, sì, lo so, siamo entrati un po' nel retroscena, nel colore, insomma, c'è anche questo. I ministri in silenzio stampa. Francesco Bei racconta della disperazione dei cronisti parlamentari che cercano di avvicinare i ministri, no? Dice Francesco Bei, forse ha ragione il senatore del PDL Cantoni, che dice conosco Monti dal 72, vi assicuro con una battuta, se si taglia un dito il sangue non gli esce da tanto che è freddo, no? Approccio marmoreo. E allora, tranne vecchie volpi come Corrado Passera, uno di larghe frequentazioni, gli altri, appena si avvicina un cronista parlamentare, guardate il neoministro Piero Giarda, l'approccio è da carta vetrata, lei è un giornalista, io con i giornalisti non parlo. Che il malcapitato replica, ma lei è il ministro, dov'è dei rapporti col Parlamento, dovrà confrontarsi prima o poi. E Giarda lo fucila, per il confronto bisogna essere in due. Arrivederci. Questo è il nuovo ministro Giarda. Ma un po' il nuovo corso è così. Un incauto giornalista chiede al neo ministro Riccardi: le posso dare il mio cellulare? Il ministro si allontana sorridendo. Guardi, in questi momenti non abbiamo problemi con la stampa. E se ne va. Oppure ci avviciniamo a questo punto a Federico Toniato, dirigente del Senato, che è l'uomo ombra del Premier in questi giorni. Gli chiediamo una domanda innocua. Allora, quando è che Monti farà il primo tour in Europa? Lui sguardo nel vuoto, non risponde, guarda nel vuoto, è consapevole del fatto che è una scena surreale, accenna un sorriso e dice «Mi scusi l'inespressività del volto, ma non posso rispondere nemmeno muovendo un muscolo». Questo pare sia il nuovo corso, cioè, insomma, cari ascoltatori, la traduco così, se vi aspettate che riusciamo a invitare dei neo ministri in onda, insomma, fateci tanti incoraggiamenti e pat pat sulle spalle, noi ci proveremo, ma non sarà facilissimo, ve lo dico, tanto che il giornale attacca con un articolo proprio sui ritratti di Mario Monti. Il vero privilegio di Super Mario è avere ai piedi la stampa zerbina. Qualunque cosa faccia, guai a mostrare del sano distacco, si passa subito per nemici. Allora, Berlusconi ha riunito i senatori, ha parlato davanti al Senato, ha detto «Volevate che mi mettessi a scrivere le mie memorie?» E invece no. Pare un Berlusconi pronto a ripartire con quella che è definita la campagna elettorale. Vuole il voto a giugno, avrebbe detto ai senatori del PDL tanto Monti dura fin quando vogliamo noi, perché i numeri, se il PDL rimane compatto, ovviamente i numeri potrebbero esserci per sfiduciarlo in qualsiasi momento. Il Cavaliere vuole il voto a giugno, scrive Carmelo Lo Papa su Repubblica, mentre secondo Libero a pagina 6 Berlusconi sarebbe pronto, questa è la vera novità, un po' diversa dagli altri giornali, lo scrive Salvatore Dama, sarebbe pronto a fondare una nuova TV. Ebbene sì, che cosa vorrebbe una web TV? Ci riprenderemo gli spazi che erano di Red TV, la TV di Massimo D'Alema, e lanceremo la nostra televisione. Così avrebbe annunciato ai suoi Rete Azzurra, il Cavaliere riparte dai vecchi amori, una nuova televisione per il PDL. Così ha detto Silvio Berlusconi ieri ai suoi. C'era stato già la TV della Libertà, un esperimento che per la verità era abbastanza fallito, era stato chiuso, era stato coordinato dal ministro Brambilla, e però Berlusconi pare che voglia ripartire dalla TV. Tra l'altro, ieri si segnalano solo come gaffe, così le definisce, le prime due gaffe dei neoministri Monti, quella del neoministro all'ambiente Clini, che è andato a Un giorno da pecora su Radio 2 e ha detto in pratica: ma perché no al nucleare? Si parlava del nucleare, il ritorno al nucleare è un'opzione sulla quale bisognerebbe riflettere molto, anche se quello che è avvenuto in Giappone ha scoraggiato. A certe condizioni è possibile. Subito, ma come? Insomma, il nucleare è stato, abbiamo detto che il nucleare non c'è più dopo l'incidente di Fukushima, anche il governo Berlusconi ha detto dobbiamo fermarci, riapre al nucleare. Ecco qui la prima polemica: nucleare, apertura di Clini, poi frena, caso già chiuso, ha dovuto già fare una nota in serata, ripensare al nucleare anche per Repubblica, poi fa dietro fronte. Ecco, questa viene definita come la prima gaffe di un ministro del governo Monti. E poi invece c'è una piccola polemica, perché Giarda, il ministro, quello che ai giornalisti dice per parlare bisogna essere in due, dunque arrivederci, è arrivato in Parlamento con un elicottero, era a Trento, doveva giurare, è stato chiamato direttamente dal Presidente della Repubblica: guardi che è stato nominato ministro, l'aspettiamo per giurare. E allora ha preso un elicottero messo a disposizione della provincia di Trento. Il presidente della provincia dell'AI di Trento dice era un elicottero nuovo dei Vigili del Fuoco di Trento che aveva bisogno di qualche ora di collaudo, e dunque ci siamo prestati a questa cosa. La Lega ha fatto subito la prima polemica: ecco, arriva in elicottero la casta che rimane, insomma, vabbè, ci sta anche questo. Ma io sono rimasto ancora al cyber premier. Guardate che l'articolo di Mattia Feltri sulla Stampa oggi, ve lo segnalo, è spettacolare, no? Il cyber premier Mario Monti, una maschera, sentite cosa scrive ancora Feltri: la maschera inespressiva di un Tutankhamon, il busto si allungava in avanti dirottando l'intero corpo verso il relatore, la respirazione inapprezzabile. Seconda fase, l'appunto, ripiegamento su se stesso, i ciuffi argentei sulle pagine del block notes, la mano a tracciare pochi fondamentali vocaboli. E in tutto il pomeriggio ieri al Premier sono state recapitate le richieste più improbabili: faccia ripartire la natalità, si occupi di asili nido, si occupi delle minoranze slovene. E poi c'è anche il zi occupi tino jaltren di Südtirol il Volkspartei Presidenten. Questo è il senatore Manfred Pinzger. E lui non c'era risvolto indegno della sua attenzione, non c'era minuzia per cui i suoi fogli non avessero angolo, appuntava tutto in maniera rigorosa, insomma, e sobria Monti per prendere appunti su tutto. Oh, siamo in chiusura, troverete molto anche della cronaca, dei dettagli, degli scontri che ci sono stati ieri da parte degli studenti che hanno individuato anche due nuovi simboli della contestazione, che sono la Cattolica e la Bocconi, ovviamente per Monti. La Cattolica invece esprime anche lei un ministro con Lorenzo Ornaghi. Voglio dare solo una chiusura così, un po' più leggera, perché la troverete sui giornali. Ebbene sì, è partito il nuovo gossip. Allora, Kate Middleton, so che sarete interessati profondamente a questa notizia. è una cosa che può cambiare le sorti della Gran Bretagna, forse anche dell'Europa, dell'euro. È incinta oppure no? E su questo si stanno dibattendo tutti i siti, tutti i giornali britannici, non solo. Kate aspetta un bambino, secondo i giornali americani di gossip. La notizia è rimbalzata dall'America, è arrivata in Gran Bretagna. No comment, ovviamente, dei reali. No comment. Sobri, i sobri reali inglesi. 24 mattino. Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, sono le 8:21 minuti. Ieri la fiducia al governo Monti al Senato, oggi ci sarà molto presumibilmente alla Camera. Che succede? Lacrime e sangue in arrivo? Che ne so. Intanto ne parliamo con il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, intanto le chiedo, l'idea di Berlusconi che dice, del PDL che dice, sosterremo Monti finché lo vogliamo, le piace oppure no? Ricordiamo che è stata un'espressione usata all'interno dell'incontro con il gruppo dei senatori, quindi un'espressione interna di partito, sostegno del PDL, leale e forte, dopodiché è chiaro che ogni nuovo governo che nasce è vincolato alla realizzazione del proprio programma, vive e vive bene, se realizza bene il suo programma e quando ha terminato il proprio programma evidentemente passa la mano, ma il sostegno del PDL c'è ed è garantito. E ieri è stato molto molto forte in Senato, hanno votato tutti. Lei teme questa idea lacrime e sangue? Monti per la verità ha detto sacrifici, ma lacrime e sangue no, e sacrifici ed equità. Però cosa si prospetta per lei? Beh, si prospettano finalmente delle misure che costano indubbiamente qualche sacrificio, ma che dovranno essere in grado di rimettere l'Italia in linea con quella crescita economica che manca ormai da diversi anni. Questo è il motivo per cui nasce il governo Monti, altrimenti non ce n'era bisogno. Monti deve realizzare quelle riforme modernizzatrici di cui l'Italia ha bisogno, ma che anche l'Europa chiede all'Italia, che finalmente permetteranno la ricrescita. Se non ricominciamo a crescere dal punto di vista economico, tutti gli altri sacrifici che già abbiamo fatto e stiamo facendo sarebbero inutili. Noi continueremo ad essere sotto l'attacco della speculazione e continueremo soprattutto a impoverirci sempre di più come paese, e si impoveriscono di più le classi che lavorano, che si danno da fare. Però Presidente, le riforme sono una cosa che ovviamente vanno fatte, una cosa che però verrà fatta pare subito al ripristino dell'ICI. Ecco, su questo, visto che l'avete tolta voi l'ICI sulla prima casa, il PDL come si pone? La voterà? Appoggerà? Se ne sta discutendo, si tratta di vedere in che misura e come verrà reintrodotta l'ICI. Dopodiché io credo che Monti abbia l'intelligenza di proporre un pacchetto di proposte equilibrato che vadano a incidere sui programmi da una parte del PDL e dall'altra parte del PD. È chiaro che se le proposte sono equilibrate, ciascuno di noi, dei nostri partiti, dovrà accettare qualche strappo con le proprie convinzioni di sempre. Sarà chiaro che è una proposta del governo tecnico di Monti e che i partiti politici la appoggiano proprio perché il momento è eccezionale. Quindi voglio dire, va bene ingoiare un boccone amaro come quello dell'ICI, ma se dall'altra parte si toccano che cosa? Le pensioni, per esempio? Le pensioni, il lavoro. Monti ha parlato di privilegi, ecco, questa è un'addizione importante. Ha detto per esempio che la tassazione sulla casa è complessivamente inferiore rispetto a quella di altri paesi, ha detto che si dovrà andare a incidere sui grandi patrimoni, insomma qualche misura di sacrificio, ripeto, ci dovrà essere. Non è che l'Italia possa pensare di salvarsi senza fare ancora dei sacrifici e soprattutto senza rimettersi in linea di corsa con quella crescita, lo ripeto per la terza volta, ma è veramente il leitmotiv per cui il governo Monti nasce. Altrimenti in condizioni normali, dopo la perdita della maggioranza alla Camera, si sarebbe tornati a votare. Ma perché abbiamo accettato di dar vita a questo governo? Perché soprattutto ha accettato il Popolo della Libertà, che ancora è detentore di maggioranza al Senato e quindi poteva dire noi non diamo la fiducia a nessun altro governo, ma l'abbiamo accettato perché bisogna mandare al mondo il segnale che in Italia queste riforme, questi sacrifici sono accettati dal 90% del Parlamento. Questo è il segnale nuovo. Prima avevamo un governo che aveva impostato molte di queste riforme, ma che godeva della fiducia del 50% del Parlamento, sì. E quindi i mercati, gli altri partner internazionali rimanevano dubbiosi sulla vera volontà dell'Italia. Oggi invece il 90% del Parlamento che dice sì, che dovrà dire sì ad un programma forte di riforme per salvare il Paese. Non è che dobbiamo farci illusioni, siamo sotto l'attacco di una speculazione internazionale potentissima ed estremamente violenta, che fra l'altro sta attaccando anche tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. Però qualche maligno invece dice, in questo momento a Berlusconi conviene, seppure chiedeva il voto, visto che è sotto nei sondaggi, non chiederlo, ma sarà pronto a farlo magari dopo queste manifestazioni di piazza, questa campagna elettorale tra virgolette itinerante per riconquistare i consensi. Guardi, le decisioni nostre saranno prese tenendo conto del modo con cui il governo Monti lavorerà. Io ipotizzo che se il governo Monti lavora bene, questo è l'augurio che dobbiamo farci tutti per il bene del Paese, se il governo Monti lavora bene nessuno andrà a interrompere la sua azione fin quando essa sarà esaurita. Se il governo Monti cominciasse a incespicare, a non produrre risultati, se lo spread continuasse ad essere alto, se i nostri buoni del tesoro venissero collegati a interessi sempre più alti, se la ripresa non parte, beh allora è chiaro che è un altro scenario politico, ma non è da augurarsi per nessuno. Certo, per lei potrebbe andare anche fino al 2013, è un'ipotesi quella di Monti, cioè fino a fine legislatura. È un'ipotesi, manca in fondo un anno e mezzo è lungo, si possono fare tante cose, devono essere fatte tante cose. Se poi il governo Monti è particolarmente efficace, le fa in un periodo particolarmente rapido, è chiaro che una volta esaurito il suo compito la parola torna agli elettori. Intanto, Presidente, io l'ho letta oggi in rassegna stampa, una notizia, perché sempre si è negativi con la casta. So che in regione Lombardia si è deciso dalla prossima legislatura di togliere i vitalizi come nell'Emilia Romagna. L'hanno già fatto, come le altre regioni si sono impegnate a fare. Poi si taglierà il 10% credo delle indennità degli eletti. Si può fare ancora di più? Guardi, questi sono provvedimenti importanti e strutturali che abbiamo preso con celerità, ci eravamo impegnati e nel giro di pochi giorni è stato realizzato. Io credo che non bisogna mai dimenticare comunque che il consigliere regionale o il deputato svolge un lavoro che lo occupa a tempo pieno, ovviamente se lo fa seriamente. Se uno fa seriamente il politico come qualunque altro mestiere, è giusto che abbia un emolumento che gli permetta non solo di svolgere la propria attività, ma anche di godere di quelle consulenze, di quegli aiuti che gli sono indispensabili. Quindi mi sembra che abbiamo raggiunto la giusta dimensione. Me la faccia fare questa domanda, perché ce l'ho da tanto. Anche Nicole Minetti se lo merita lo stipendio? Questa appunto è la valutazione che gli elettori devono dare. Io lei è il presidente della Lombardia, la differenza fondamentale, Nicole Minetti come consigliere regionale è presente e lavora, ma vede, il problema è nel manico, è all'inizio, bisogna eliminare i politici nominati dall'alto, quindi io ho detto sempre no ai deputati e senatori nominati dall'alto e no a quella quota di 15% di consiglieri regionali che sono eletti nell'estino. Il premio di maggioranza non deve essere attribuito a dei nomi indicati che non sono obbligati a prendere nessun voto di preferenza, ma deve essere dato a chi ha preso voti sul territorio e quindi è gradito ai cittadini. Senta Presidente, l'ultima questione è questa: vari consiglieri regionali le hanno chiesto e hanno chiesto di fare luce per quel che riguarda i rapporti tra la Regione Lombardia e Pierangelo Daccò, uomo arrestato nell'ambito della vicenda del San Raffaele. Lei o la Regione, come rappresentante della Regione, che tipo di rapporti c'è, un qualche tipo di rapporto con Pierangelo Daccò? Nessunissimo tipo di rapporti. Pierangelo Daccò non aveva con Regione Lombardia nessunissimo tipo di rapporti, svolgeva quello che si sa dei lavori di consulenza con il San Raffaele, dopodiché Regione Lombardia aveva a che fare con gli amministratori del San Raffaele, che è uno degli ospedali più moderni, più avanzati e migliori non solo d'Italia ma del mondo. E noi San Raffaele è un'istituzione privata nella quale potevamo e non dovevamo entrare. Ma lei vuole dire, può escludere che uomini della regione abbiano incontrato appunto Daccò in quanto rappresentante del San Raffaele? Comunque, ma questo probabilmente è accaduto, ma certamente, ma quando il San Raffaele, ripeto, istituzione privata, manda in propria rappresentanza a rappresentare le sue posizioni, questo o quello, è chiaro che chi sceglie di essere rappresentato è la società che lo fa. Torno a dire, noi siamo i principali acquirenti del San Raffaele di prestazioni sanitarie, quelle che San Raffaele svolgeva ai cittadini. Controllavamo le prestazioni sanitarie, verificavamo che fossero di alta qualità e fossero fatte a vantaggio dei cittadini, ma questo nessuno lo contesta. Poi le vicende interne a San Raffaele, chi sceglie come dipendente, chi sceglie come dirigente, evidentemente sono decisioni del San Raffaele. E infine un flash, una commissione d'inchiesta hanno chiesto anche qualcuno di fare sul San Raffaele in regione, è possibile? Ma guardi, francamente sono vicende su cui cui sta indagando la magistratura. Mi sembra che questa decisione, ove fosse assunta, intralcerebbe il lavoro della magistratura, si sovrapporrebbe al lavoro della magistratura. Faccia la magistratura, anche perché il consigliere regionale, torno a dire, non ha da mettere il naso nelle vicende di una società privata. Per quanto riguarda i rapporti tra la Regione e San Raffaele, sono testimoniati in tutti i bilanci della Regione da 10 anni a questa parte, anzi da quando il San Raffaele esiste, i controlli sono costanti, i finanziamenti sono verificabili al centesimo. Questo non c'è bisogno di fare una commissione indagine, sì. Basta andare a vedere su internet i bilanci anno per anno. Grazie, buona giornata al Presidente della Lombardia. Sono le 8:37 minuti. Cosa farà Monti? Ne vogliamo parlare con il senatore Nicola Rossi, che saluto. Senatore, buongiorno. Buongiorno. Del gruppo Misto, economista, presidente anche l'Istituto Bruno Leoni. Saluto anche Daniela Santanchè, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno. Popolo della Libertà. Senta, intanto lei, Santanchè, mi pare che ha detto se rimette l'ICI sulla prima casa non mangia la colomba, cioè non arriva a Pasqua. Cioè, se mette l'ICI, il Popolo della Libertà, che vota? Io dico questo, l'ICI è una tassa assolutamente che gli italiani non capirebbero, perché lei, come ben sa, la prima casa è un numero altissimo in percentuale, no? Di che i proprietari, sì, di case. Quindi voglio dire, noi siamo arrivati al governo, l'abbiamo tolta, e adesso ad introdurre l'ICI io credo che bisognerebbe cercare qualche altra tassazione, perché questa è proprio la fatica degli italiani. Però lei non esclude le tasse, no? Bisogna altre tassazioni, cioè non esclude le tasse, l'idea. Io dico, non escludo le tasse, escludo questa tassazione, perché gli italiani hanno comprato la casa nella maggior parte con grandi sacrifici, lavorando, pagando le tasse, e adesso pagare un'ulteriore tassa mi sembrerebbe proprio l'approccio più sbagliato che si possa l'approccio avere. Più sbagliato. Senatore Rossi, lei è un liberista, lei nel gruppo Misto, liberale, sì. Un liberale, che ne pensa di questo primo approccio, insomma, del senatore Monti? L'ICI verrà messa, perché questo, dicendo che è un'anomalia tutta italiana non averla sulla prima casa, vuol dire che la metterà. E poi guardi, io sono uno di quelli convinti in maniera, diciamo, anche abbastanza radicale, che la salvezza dell'Italia, diciamo, soprattutto la ripresa del processo di crescita, dipende dal fatto che si abbattano le tasse. Siamo arrivati ad una pressione fiscale che non sta più né in cielo né in terra, quindi si figuri se io posso essere favorevole ad ulteriori tasse. Però osservo che l'abolizione dell'ICI è stata, se così posso dire, una stupidaggine bipartisan, perché l'hanno voluta Prodi, l'ha voluta Berlusconi, e non è che abbia ridotto la pressione fiscale, perché poi ai comuni i soldi li abbiamo dati lo stesso, e li abbiamo dati dove? Prendendoli da una pressione fiscale che cresceva. Quindi non è che abbiamo risolto il problema, abbiamo semplicemente limitato l'autonomia finanziaria dei comuni, sì, cosa che non so quanto sia stata ragionevole, o almeno dal mio punto di vista io penso che agli enti locali vada data autonomia e massima responsabilità. Visto che poi di altri tagli ne sono seguiti ai comuni. Sì, insomma, sì, lo so benissimo, infatti, ma proprio questo è il problema, diciamo, forse sarebbe stato meglio lasciargli l'autonomia finanziaria, lasciargli liberi di decidere e mandarli davanti ai loro elettori a rispondere degli aumenti di tasse che eventualmente avrebbero fatto. Quindi da questo punto di vista sarei un po' meno, diciamo, radicale nel pensare che non si debba reintrodurre l'ICI, purché sia ovvio che a quel punto i trasferimenti che gli abbiamo dato vengono revocati e che l'obiettivo di fondo sia quello di una riduzione della pressione fiscale. Ah, ecco, accompagnata a questo, le piace di più così, Santanchè, cioè accettare l'ICI ma una minore pressione fiscale? Perché lei dice no all'ICI, no anche alla patrimoniale, che è un'altra cosa che si profila come ipotesi, insomma, magari sui grandi patrimoni, però qualcosa bisognerà fare per recuperare dei soldi. Ma io sono d'accordo con Rossi, nel senso che abbiamo visto che aumentare le tasse vuol dire deprimere i consumi, quindi voglio dire, io spero, mi auguro che ci sono economisti al governo, banchieri al governo, gente che dovrebbe avere delle ricette diverse, perché arrivare come prima cosa a dire l'ICI onestamente non mi sembra un approccio nuovo alla politica, mi sembra il vecchio, perché l'ICI da qualsiasi parte, destra e sinistra, chi come noi la combatte e chi invece la vuole mettere, ma una ricetta che tiene il vecchio di un paese. Però non è che Monti ha detto solo l'ICI, voglio dire, ha parlato di flex security, di mondo del lavoro. Assolutamente il discorso che ha fatto, dico semplicemente che auspico e mi auguro che un governo fatto con così alto profilo trovi delle ricette diverse per l'economia, per la crescita, per il paese, che non siano queste, perché scusi, dici da quanti anni è che ne parliamo? Lei ha detto banchiera al governo, ma l'ha detto con una punta di polemica, oppure ha sottolineato solo un dato di fatto, cioè Passer, che si è dimesso peraltro? Io ho sottolineato una specificità. Cioè il governo delle banche? Come lei dicesse, io faccio l'imprenditore. No, vabbè, ho capito. È il governo delle banche? Guardi, è una cosa che dovrebbe più rivolgere al centro-sinistra, perché a noi le banche e i banchieri abbiamo sempre avuto un atteggiamento di un certo tipo, ma quello che invece io veramente non riesco a capire è come la sinistra si genuflette a ciò che sino a ieri ha combattuto ferocemente, perché sono i ragazzi che sono gli indignados o quelli che ieri manifestavano a Milano, gli studenti, appartengono, come credo, più a loro che a noi. Quindi voglio dire, vedere questa sinistra che adesso sembra che questo governo, la composizione di questo governo sia meraviglioso. Questo governo contiene tutto ciò che loro sino a ieri hanno avversato. Lei sta con quelli che manifestavano ieri, no, al di là delle violenze? Cioè sono più coerenti loro rispetto a questa sinistra? Io non sto naturalmente con quelli che manifestavano ieri. Sarebbe una notizia ieri, clamorosa. La voglio dire, la riforma Gelmini, e dico che Gelmini ha fatto una riforma che giusta il nostro spirito, quindi io non posso stare con quelli di ieri ovviamente, ma per credo. Dico che la sinistra, che in questi giorni lei avrà ascoltato, avrà letto, avrà intervistato, che trova bellissimo tutto ciò che ieri trovava bruttissimo. Vediamo, se chiediamolo, senatore Rossi, lei che è stato eletto nel Partito Democratico, poi ha avuto un percorso parlamentare diverso, ne è uscito nel gruppo misto per l'appunto, secondo lei le misure di Monti saranno più difficili da digerire in Parlamento alla sinistra, una sinistra che la Santanchè definisce genuflessa sulle posizioni di Monti? Si figuri se ci ho posto rispondere per diciamo un'area da cui provengo e a cui oggi non appartengo, sarebbe l'ultima cosa diciamo che potrei pensare di fare. Non so se sarà più facile per loro digerire una serie di questioni che ieri Monti ha posto sul tappeto. Osservo che mi pare proprio ieri Vendola abbia preso le distanze, non lo trovo strano, detto con franchezza. Osservo che anche lo stesso voto di fiducia dell'IDV non è stato però pieno e incondizionato, ma al contrario, diciamo, sarà da oggi in poi, se ho ben capito, un voto sul singolo provvedimento. E del resto questo è abbastanza naturale. Io credo che il programma diciamo del governo Monti possa creare seri problemi, devo dire la verità, tanto da una parte quanto dall'altra, e non è sorprendente, perché i problemi sul tappeto che ieri Monti ha elencato sono sul tappeto da 15 anni, sono problemi non affrontati tanto da destra quanto da sinistra, perché il costo politico di alcune di quelle misure è elevato, diciamo, quindi non mi meraviglia che tanto gli uni quanto gli altri possano avere dei seri problemi di fronte. Forse è il modo per durare, forse è il modo giusto di Monti per durare, dare un colpo di qui e un colpo di là, no? Io devo essere proprio sincero, io penso che di quelle cose lì il paese oggi abbia bisogno. Bisogna prescindere, questo certo. E per mettersi in condizioni di stabilità finanziaria. Di alcune ne ha bisogno proprio urgentemente, perché la situazione complessiva è piuttosto seria, quindi io mi auguro veramente che il governo dimostri la propria capacità venendo in Parlamento nel giro di giorni, se possibile, con i primi provvedimenti. Ma comunque quelle cose lì sono cose che abbiamo accantonato per troppo tempo, perché un po' tutta la società italiana si rifiutava di vederle. Io non penso che solo la politica, diciamo, vada da questo punto di vista messa all'indice. Ah no, è chiaro, quando si parla di pensioni o quando si parla di flessibilità nel mercato del lavoro, sono temi che appena uno li nomina e subito ci sono manifestazioni, non si possono neanche toccare, come se fossero dei totem inviolabili. Il traffico, e poi ripartiamo da qui, magari parliamo appunto anche di questa idea del mercato del lavoro, la flex security. Oggi il senatore Ichino, in una intervista molto appassionata al Riformista, ha detto: ma che toccare l'articolo 18? Monti non l'ha detto, ma già subito partono, diciamo, gli allarmi sociali da parte di qualcuno. Allora, siamo con il senatore Nicola Rossi e con Daniela Santanchè a parlare del governo Monti. 800 24 00 24. Antonio da Roma, buongiorno, ci ha chiamato. Buongiorno. Che ne pensa? Parlavo del discorso dell'ICI. Sì. Volevo parlare a proposito dell'ICI. Dica. Si sta parlando, insomma, ieri sera Bruno Vespa parlava del discorso di mettere l'ICI. Vabbè, sì. Sì, non solo Bruno Vespa se ne parla, insomma, è abbastanza notizia. Dica. Sì. Insomma, quando fu tolto l'ICI, i comuni automaticamente si adeguarono, aumentarono la tassa dei rifiuti, aumentarono l'acqua, hanno aumentato le imposte per compensare. Certamente, oggi la rimettiamo. Sì. Quegli aumenti, che succede? Mancano pure quelli. È una bella... Rossi, lei, senatore, ha risposto, cioè, le piacerebbe l'ICI se diminuiscono i contributi ai comuni, e immagino anche, se c'è una minore pressione fiscale, immagino voglia dire anche questo, cioè i comuni dovrebbero adeguarsi a questo punto. Assolutamente. Nelle tariffe. È proprio così. Per una questione di equità, se Monti parla di equità. Quindi Antonio, poi vedremo se sarà così, però la ricetta potrebbe essere, dovrebbe essere, per una questione di equità sociale, quella: mettiamo l'ICI e quindi abbassiamo la tassa, che ne so, sui rifiuti. Grazie Antonio. Per Luigi da Reggio Emilia, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Di che? Allora, io partivo da un presupposto che era quello che finché ragioniamo solo sulla nostra utilità personale non ci muoviamo di un passo. Secondo me dovremmo, e io parlo da cittadino, tacere tutti per un anno e mezzo e lasciare che Monti faccia quello che deve fare. Sì. Perché alla fine andrà a prendere dappertutto, andrà a prendere tutti, speriamo, e io dico che se dovesse anche andare a prendere tutti i soldi a me, mi va bene, perché siamo debitori, siamo in una situazione piuttosto pericolante e quindi dovremmo smettere di guardare solo il nostro proprio interesse. Vabbè, Pierluigi, però ha capito. Sì, va bene. Io grazie per la sua autocandidatura, se vuol dare i soldi anche per me, per senatore Rossi e l'onorevole Santanchè, va bene, però insomma, tacere tutti, non lo so, cioè la politica dovrebbe abdicare, lasciare a re Mario Monti la possibilità di fare tutto e di più. Senatore Rossi, la questione del lavoro. Oggi Ichino sul Riformista dice: ma che articolo 18? Già però si alzano appunto le proteste di possibile intaccamento dell'articolo 18. Invece Ichino dice: ci vuole solo la maggiore flessibilità, c'è un vero e proprio apartheid oggi tra chi ha il lavoro garantito e chi non ce l'ha. Come rompere questa incrostatura? So che non è facile fare un'analisi breve qui. No, allora io condivido in toto la soluzione che Pietro Ichino ha proposto. Credo che non dobbiamo giocare con le parole, però. Allora, la soluzione di Pietro Ichino è una soluzione che lascia, per quanto riguarda gli attuali occupati a tempo indeterminato, le cose esattamente come stanno. Quindi da quel punto di vista nessuno deve sentirsi minacciato da quella soluzione. Riguarda ciò che accadrà sul mercato del lavoro e propone di trattare in maniera identica tutti i nuovi occupati, dando loro un unico contratto le cui tutele crescono al crescere della permanenza nel posto di lavoro, e che sono tutele, per quanto riguarda il licenziamento, di carattere monetario e non di carattere legale. Quindi che si debba rivedere in quello schema l'articolo 18 guardando in avanti va da sé, diciamo. Però non per gli attuali, lavoratori. Ma non per gli attuali, esatto. Santanchè, questa idea le piace, o l'articolo 18 teme che su questo, per esempio, sia un totem appunto inviolabile, anche se per il futuro e il paese non è pronto a questo? Ma guarda, io lo trovo assolutamente giusto, perché appunto si rivolge ai nuovi occupati, ai nuovi lavoratori. Allora, se noi vogliamo veramente, perché una nazione che non guarda i giovani, una nazione che non ha nessuna possibilità di futuro, e siccome sappiamo anche le imprese, le difficoltà che hanno, per i nuovi occupati dobbiamo andare in quella direzione, e in quella direzione è evidente che ci deve essere la possibilità di licenziare, perché se io imprenditore assumo una persona perché oggi ne ho bisogno, ma me la sposo, anzi di più che me la sposo, perché oggi se mi sposo posso anche divorziare, se invece assumo una persona la devo tenere per tutta la vita, capisce che l'occupazione giovanile sarà sempre ai livelli di disoccupazione che abbiamo. Il messaggio però, questo licenziamenti, la possibilità di licenziare, riecheggia quel licenziamento facile, che forse nel messaggio comunicativo non è stato il massimo, no, Santanchè? Ma guardi, il professor Monti, io credo che essendo italiano avrà seguito tutto quanto, saprà, e la sua squadra che ha messo in piedi saprà quello che ha bisogno il paese, io di questo sono assolutamente convinta. Non so quali saranno le sue ricette, perché vede, ieri nel discorso ha elencato una serie di principi che possiamo qua oggi discuterne giustamente, ma non sappiamo ancora quali saranno i provvedimenti. Invece sappiamo una cosa certa, che la voglio sottolineare perché credo che anche molti italiani la pensino in questa maniera. Il governo, cioè noi siamo andati a casa, il Presidente del Consiglio è andato a casa in nome dello spread dei mercati. Ah, lo spread dei mercati. Si fermi qui però, perché il tempo è scaduto, tanto ci risentiremo presto. Grazie a tutti, il senatore Nicola Rossi e Daniela Santanchè, per essere stati con noi. Dalla redazione tutta, un augurio di buon weekend, ci sentiamo lunedì mattina.